sono stato via per tutto questo tempo. Non pensare che io sia così diverso. Son cambiato, sai, ma non puoi così tanto. Io ti aspetterò e se ne avrò la forza mi avvicinerò fino alla tua porta. Che ci posso fare fino a farmi male, fino a farmi male. Ti amerò per sempre, mi cambierò la pelle e poi ti capirò. Come se fosse la prima volta, portami con te, decido io la rotta. E son sicuro, sai, e questa è quella giusta. Sono stato via per tutto questo tempo, è stata colpa mia. Uccidimi per questo, per dimenticare, fino a farmi male, fino a farmi male.